Da secoli la religione cattolica, molto probabilmente condizionata dall'opinione che Agostino esprime nel suo libro De Trinitate, insegna che Gesù morì il venerdì della settimana di Pasqua e risuscitò la domenica, il primo giorno della settimana ebraica. Ma questo insegnamento è in forte contraddizione con le parole di Gesù, il quale affermò che sarebbe rimasto 3 giorni e 3 notti nella tomba. Allora alcuni scribi e farisei lo interrogarono dicendo: «Maestro, noi vorremmo vedere da te qualche segno». Ma egli rispondendo disse loro: «Questa malvagia e adultera generazione chiede un segno, ma nessun segno le sarà dato se non il segno del profeta Giona. Infatti, come Giona fu 3 giorni e 3 notti nel ventre del grosso pesce, così starà il figlio dell'uomo 3 giorni e 3 notti nel cuore della terra». Matteo 12, 38-40. Se Gesù avesse parlato solo di 3 giorni, era anche possibile vederla diversamente, ma poiché ha chiaramente detto che sarebbe rimasto nella tomba 3 giorni e 3 notti, per forza di cose devono essere trascorsi 3 giorni completi prima della sua resurrezione, cioè più di 72 ore. Questo è in contrasto con l'insegnamento tradizionale del cattolicesimo romano, il quale vuole che Gesù muoia il venerdì per risuscitare prima di 48 ore. La ragione che ha indotto la religione cattolica a ritenere che Gesù sia morto il venerdì scaturisce dalla affermazione della scrittura secondo la quale egli morì prima del sabato e, dopo averlo tirato giù dalla croce, lo avvolse in un lenzuolo e lo mise in un sepolcro scavato nella roccia, dove nessuno era ancora stato sepolto. Era il giorno della preparazione e il sabato stava per cominciare. Le donne, che erano venute con Gesù dalla Galilea seguendolo da vicino, osservarono il sepolcro e come vi era stato deposto il corpo di Gesù. Poi esse tornarono a casa e prepararono gli aromi e gli unguenti e durante il sabato si riposarono, secondo il comandamento. Ora, nel primo giorno della settimana, al mattino molto presto, esse e altre donne con loro si recarono al sepolcro portando gli aromi che avevano preparato. Luca 23, 53 a 24, 1, Marco 15 e 42. Poiché quando morì Gesù il sabato stava per cominciare, se ragioniamo secondo la nostra cultura, il giorno precedente al sabato è il venerdì. Perciò il cattolicesimo romano ha concluso che Gesù è morto di venerdì. Ma, ancora una volta, il cattolicesimo è stato vittima di un'errata interpretazione. Esaminiamo i fatti. Secondo l'Evangelo di Marco, 16, 1-2, le donne comprarono gli aromi dopo il sabato, mentre, secondo il racconto di Luca, 23 e 56, esse li comprarono prima del sabato. Come mai questa contraddizione? Questo non dimostra una discordanza nei racconti dei 4 Vangeli? Questa apparente dissonanza è data dal fatto che, per noi che non siamo ebrei, il sabato è solo un giorno della settimana, mentre per gli ebrei il sabato, cioè Shabbat, è definito anche qualsiasi giorno o addirittura anche ad un anno festivo consacrato all'Eterno. Ecco un esempio: nella legge di Dio parla ai figli di Israele e di loro: quando entrerete nel paese che io vi do, la terra osserverà un sabato di riposo per l'Eterno. Per 6 anni seminerai il tuo campo, per 6 anni poterai la tua vigna e ne raccoglierai i frutti, ma il 7° anno sarà un sabato di riposo per la terra, un sabato in onore dell'Eterno. Non seminerai il tuo campo né poterai la tua vigna. Levitico 25, 2 a 4. Israele dunque aveva un anno di riposo per la terra, che veniva chiamato sabato. Inoltre, per la nostra cultura, noi siamo abituati a pensare a un solo sabato alla settimana, mentre, per il calendario ebraico, era abbastanza comune avere più sabati, cioè feste, nella stessa settimana. Infatti, nella settimana degli azimi, che iniziava con la Pasqua, facevano festa sia il 14° giorno che il 15°, cioè 2 sabati di Pasqua consecutivi. Nel 14° giorno del primo mese sarà la Pasqua in onore dell'Eterno e il 15° giorno di quel mese sarà festa. Per 7 giorni si mangerà pane senza lievito, Numeri 28, 16, 17. L'Evangelista Giovanni, notando che il giorno che stava per iniziare era un gran giorno, si riferiva appunto al quindicesimo giorno. Or, i giudei, essendo il giorno di preparazione, affinché i corpi non rimanessero sulla croce il sabato, perché quel sabato era un giorno di particolare importanza, chiesero a Pilato che fossero loro spezzate le gambe e fossero portati via. Giovanni 19:31. Tenendo presente che le donne non potevano comprare gli aromi il quindicesimo giorno perché era festa, cioè un sabato, esse li comprarono il giorno dopo, cioè il sedicesimo. Il giorno successivo, il diciassettesimo, era il sabato settimanale, il giorno che seguiva il venerdì, e le donne si riposarono. Luca 23:56. Solo il giorno seguente, il diciottesimo giorno del mese, esse poterono andare al sepolcro per ungere il corpo di Gesù. Noi siamo abituati a considerare gli eventi che leggiamo nei Vangeli come episodi consecutivi uno all'altro, ma nella settimana in cui morì Gesù ci furono tre giorni festivi, cioè tre sabati, il sabato della Pasqua, il sabato del giorno dopo e il sabato del giorno della settimana, divisi da un giorno lavorativo. E, in quel giorno lavorativo che le donne comprarono gli aromi. Questa è la ragione per cui nei Vangeli leggiamo che le donne comprarono gli aromi sia prima del sabato che dopo il sabato. In effetti gli evangelisti in greco, riferendosi al sabato, usano il plurale. Ecco come rendono alcune traduzioni. Ora, alla fine dei sabati, all'alba del primo giorno dopo i sabati, Maria Maddalena e l'altra Maria andarono a vedere il sepolcro. Matteo 28:1. I tre sabati sono dunque il bandolo di una apparente contraddizione dei Vangeli. Per comprendere meglio gli avvenimenti della settimana di Pasqua, facciamo i conti a ritroso. Il 18° giorno era domenica, cioè il primo giorno della settimana. Il 17° giorno era il sabato settimanale, giorno di riposo. Il 16° giorno era venerdì, giorno feriale. Il 15° giorno era giovedì, giorno festivo, di riposo, quindi un Shabbat secondo la cultura ebraica. Il 14° giorno era mercoledì, quando Gesù morì. Una simile prospettiva ci induce a pensare che passarono 4 giorni dalla morte alla resurrezione di Gesù. Ma, ancora una volta, dobbiamo fare i conti con le usanze ebraiche. Poiché gli ebrei iniziavano a contare i giorni dalle 18 di sera per terminare alle 18 di sera del giorno successivo, Levitico 23 e 32, facciamo i conti dei giorni alla luce di questa usanza. Gesù celebrò la Pasqua, il primo giorno degli azzini, alla sera verso le ore 18, Matteo 26, 17 e 20, a notte inoltrata fu tradito, al mattino andò da Pilato, Matteo 27, 1 a 2, a mezzogiorno fu crocifisso, Matteo 27, 45, al pomeriggio, alle ore 3, cioè alle 15, morì, Matteo 27, 45, 50, e fu sepolto prima di sera, cioè prima delle 18. Tutto questo avvenne in uno stesso giorno, il 14°, cioè il mercoledì, il 4° giorno della settimana. Gesù, quindi, morì nel giorno della Pasqua ebraica. Ora facciamo i conti dei giorni in cui Gesù rimase nel sepolcro. Gesù morì alle ore 15 del mercoledì, il 4° giorno della settimana, e fu sepolto prima di giovedì, ore 18. Inizio giovedì, ore 18, fino inizio del venerdì, ore 18. Inizio venerdì, ore 18, fino inizio del sabato, ore 18. Inizio sabato, ore 18, fino inizio del primo giorno della settimana, ore 18. Quando Gesù risuscitò, erano passati 3 giorni e 3 notti, come egli aveva profetizzato. Morendo il 4° giorno della settimana, cioè il mercoledì, e risuscitando il 7°, cioè il sabato, i conti tornano. 1° giorno, 2° giorno, 3° giorno. Ancora una volta, la scrittura è superiore ad ogni autorità religiosa e a ogni interpretazione di persona autorevole, come può essere quella di Agostino. Egli scrisse in De Trinitate che Gesù non stette 3 giorni e 3 notti nella tomba, concludendo: le ragioni che da parte mia ho presentato Le ho desunte dall'autorità della Chiesa tali quali ce l'hanno tramandate di antichi dalla testimonianza della scrittura, dalle leggi dei numeri e delle proporzioni. Ora nessun saggio vorrà andare contro la ragione, nessun cristiano contro la scrittura e nessun uomo pacifico contro la Chiesa. L'acume, l'intelligenza, lo spirito dei padri della Chiesa sono da ammirare, ma la Chiesa stessa, rappresentata dalla tradizione dei padri, è soggetta a sbagliare perché la verità è solo una persona. Gesù Cristo e la sua parola. Se noi siamo abituati a sottomettere i nostri ragionamenti e la nostra logica alla parola di Dio, se riteniamo la scrittura più autorevole delle nostre opinioni, allora saremo in grado di afferrare il messaggio contenuto nella parola di Dio. Possiamo avere dei dubbi in merito alla nostra comprensione, ma non dobbiamo mai dubitare ciò che la scrittura afferma. Se Gesù ha detto che sarebbe stato sepolto 3 giorni e 3 notti, qualsiasi interpretazione che diamo ai fatti storici dei Vangeli deve concordare con ciò che Gesù ha detto. Alla luce di quanto fin qui sostenuto, la religione cattolica dovrebbe umilmente ammettere che, oltre ad affermare cose vere perché conformi alla scrittura, essa persiste anche in tante cose false. Ma dovrebbe soprattutto riconoscere che l'autorità di cui si vanta non le è data da Dio. L'esortazione di Agostino che nessun uomo pacifico dovrebbe andare contro la Chiesa è molto pericolosa. Per almeno 2 motivi. Il primo è racchiuso in una frase di Mill, in Essays on Liberty, che trovo assai perspicace. Se tutta l'umanità fosse dello stesso parere e una sola persona fosse di parere contrario, l'umanità non potrebbe essere giustificata se mettesse a tacere quella persona più della persona stessa, se, avendone la possibilità, mettesse a tacere tutta l'umanità. La seconda ragione per la quale è assurdo ritenere sbagliato contestare la presunta autorità del cattolicesimo romano è che grandi uomini di Dio si sono scagliati contro il cattolicesimo romano e, mentre molti di questi sono condannati al rogo o uccisi, alcuni di essi sono stati riconosciuti giusti, altri dichiarati santi. Proprio perché la storia ci insegna questo, come è stato detto, il potere assoluto corrompe chi lo possiede. Perché nel momento in cui l'uomo ha in mano questo potere assoluto, nutre anche la convinzione di essere infallibile e di essere uno strumento dello Spirito Santo. Quindi, per non far cadere il prossimo in un simile diabolico errore, è opportuno, saggio e giusto riconoscere il potere assoluto solo a Dio. Gesù Cristo, dunque, per quanto se ne dica, non è morto il venerdì ma il mercoledì e stette nel sepolcro 3 giorni e 3 notti per risuscitare il primo giorno della settimana. Poiché non è mia intenzione focalizzare l'attenzione solo sul giorno in cui morì Gesù, dobbiamo ricordare che la resurrezione di Cristo è un episodio unico. Dopo 2000 anni si parla ancora di questo straordinario evento, che dovrebbe scuotere anche gli scettici più radicali. Gesù è risorto per testimoniare della sua divinità e per attestare davanti al mondo che coloro che hanno posto fede in lui hanno ragione. Chi crede in Buddha, in Maometto o in qualsiasi altro profeta non ha nessuna prova che la sua fede sia vera, mentre la resurrezione di Gesù Cristo è una testimonianza e una prova eterna che il cristiano si porta nel cuore e che l'accompagna fino al giorno in cui comparirà davanti a Dio. Questa è la parola della fede che noi predichiamo, poiché se confessi con la tua bocca il Signore Gesù e credi nel tuo cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Col cuore infatti si crede per ottenere giustizia e con la bocca si fa confessione per ottenere salvezza. Perché la Scrittura dice: chiunque crede in Lui non sarà svergognato. Romani 10, 8-11. Novembre 1974. Febbraio 2004. Ellero.